oppure può ovviamente trovare le date in programma, suggerire dei luoghi in cui fare estesi dalle tesi e soprattutto mettersi in contatto diretto con gli studenti dalle tesi che sono già diventati protagonisti in tutti questi eventi. Quindi può conoscere le loro storie e può contattarli direttamente se ha bisogno o se ha interesse per i propri studi, per il proprio lavoro, semplicemente perché da quello che legge gli stanno simpatici. Benissimo. Un abbraccio e un ringraziamento ad Adriana Migliucci che lo cura e a presto. Grazie a voi, a presto.